Pronto, ciao Corrado. Ciao. Ciao. Qui ciao. Giorgio e Francesca. Come ciao, stai? Ciao, ciao. Benvenuto. Bene, bene, tutto a posto. Benvenuto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. E noi siamo qui con Futura appunto per parlare soprattutto della tua data qui nella nostra città, e abbiamo visto che è stata raddoppiata, quindi oltre il 2 ci sarà anche il 3 novembre. Esatto, sì, perché fortunatamente la prima data è andata sold out abbastanza velocemente, quindi abbiamo detto vabbè, allora si raddoppiamo. Ma senti, raccontaci un po' che rapporto hai con la città di Bologna. Ma allora, bello, ma non so il perché, nel senso che dalle prime volte in cui sono venuto a suonare a Bologna c'è sempre stata una risposta, devo dire, abbastanza sconvolgente, calda, nel senso che sì, ma proprio dall'inizio, da quando avevo suonato in un posto minuscolo e c'era proprio tanto attaccamento a quello che facevo. Poi ovviamente essendo cresciuto io è cresciuto anche il pubblico, diciamo, in proporzione. Però insomma è sempre molto molto bello suonare a Bologna. Oh, e non lo dico perché me lo state chiedendo. Ottimo. Noi siamo, guarda, è una cosa in realtà di cui andiamo veramente felici, perché lo dite in tanti, cioè, quindi Bologna ha un non so che non lo so, mette a proprio agio gli amici. Credo che sia anche per la questione che comunque è una città universitaria, quindi ci sono insomma poi alla fine un po' tutte le regioni, no? E quindi magari ci sono tanti ragazzi che ascoltano e che quindi poi siamo disposti magari a venire a un concerto o comunque a farti vedere, quindi sì, ma senti una cosa, noi durante l'ultimo tour io mi ricordo di una iniziativa fantastica, cioè te lo chiedo perché noi utilizziamo moltissimo le Kodak e gli scatti analogici. So che durante il tuo concerto c'era questa macchinetta fotografica che girava e volevo sapere se è una cosa che ripeterai anche adesso. No, allora sì, quella cosa l'abbiamo, cioè l'ho pensata durante appunto il tour del disco vecchio, quindi ogni data mi portavo una/due macchinette fotografiche o soggetta che facevo passare in mezzo al pubblico, in modo tale che il pubblico potesse o fotografarsi o fotografarmi o fotografare insomma le altre persone. Bello, molto. Sì. Poi insomma era andato tutto su un Tumblr che avevo aperto, e quindi insomma tutte le persone che erano state al concerto potevano poi vedere tutte le foto. A sto giro no, ci sarà un'altra piccola sorpresa però. Ah, ecco, okay. Guarda, io ero già lì pronta con la domanda della serie, cosa ti sei inventato per questo nuovo tour, ma quindi rimane. No, c'è un'altra cosa. Lo scopriremo il 2 e il 3. Esatto, tra qualche giorno. Quindi quest'estate è uscito il 22 giugno Blu Karaoke, e io volevo sapere da te come sono andati questi mesi, ma soprattutto cosa vuol dire per te pubblicare un altro album. E quindi che sensazioni hai provato? Allora, questi mesi sono stati insomma positivi, perché la risposta della gente è stata super positiva. Io lo dico sempre, di solito i miei dischi vengono presi sempre un po' così, cioè vanno un attimo capiti. Invece questo disco mi è sembrato che dall'inizio insomma è piaciuto molto. E poi anche queste prime date che abbiamo fatto fino ad ora, insomma, che sono la prova, perché la gente, ecco, canta tutti i pezzi dall'inizio alla fine, quelli nuovi, quelli vecchi, quindi è carica. Però quando fai un disco, quando fai un disco la parte più bella è quando ce l'hai solo tu, e lo ascolti prima e ti immagini magari come la gente lo potrebbe prendere. Perché quella è sempre la parte più magica. Sei un po' geloso del tuo album, quindi, prima di condividerlo? No, però ho capito, ti fai un po' di film su come la gente potrebbe recepire alcuni pezzi, piuttosto che, insomma, i pareri che può farsi. Poi quando esce li leggi, quindi poi sono reali, però prima è tutta immaginazione. Ma ti è mai capitato di aspettarti un qualcosa e poi in realtà è successo tutto l'opposto, oppure di solito le aspettative vengono nella mia vita è così. Capita spesso che magari io penso che un pezzo possa piacere più di un altro, invece poi magari quello che a me piace meno, che ho scritto magari più velocemente, in maniera più leggera, poi prenda maggiormente di alcune cose su cui magari mi concentro. Ma insomma, poi è normale, voglio dire. Senti, invece finché l'ho messo nel disco vuol dire che voglio farlo uscire, quindi. Assolutamente sì. Ma scusami, ti stavo interrompendo. Io sono davvero curiosa di sapere invece di questa nuova estetica, perché sappiamo bene che sei un graphic designer, ma per la tua copertina non ci hai messo mano tu, ecco. Quindi volevamo sapere un po' come ti era venuta questa idea di cover nuova. Beh, allora sì, diciamo che non ci ho messo mano io, però l'idea comunque parte da me insieme al fotografo che è Pietro Cocco, che con cui avevamo scattato anche la copertina di Lasca. Beh, praticamente nulla, cioè poi per i miei dischi è sempre più facile da una parte, ma sempre più complicato dall'altra, poi essere in primo... Metterci la faccia. Sì, comunque essere nel processo creativo di un disco mio è da una parte facile perché so cosa mi piace, però dall'altra vale tutto, non so come dire, perché appunto il cliente sono io. Fai tutto, no, però, tutto. No, è chiaro. No, però insomma penso che la copertina rispecchi abbastanza poi il mood del disco. Sì, ma te lo chiedevo perché mi è successo qualche settimana fa, stavo ascoltando un pezzo di Blu Karaoke e credo fosse Pratica, tra l'altro, e praticamente subito dopo mi è partita la Michelina, non chiedermi perché, e in realtà ho notato solo su Spotify che sono simili le due copertine. Ah, ma la copertina del singolo forse dici tu. Sì, sì, ho capito quale dici. Hai quello con l'abbraccio censurato. Esatto. Ed è stata una cosa strana, proprio legandomi al fatto che tu, essendo anche graphic designer, insomma, avevi tantissime opzioni e invece hai scelto nuovamente di metterci la faccia, e questo comunque è super apprezzabile. Sì, beh, poi comunque la faccia fino a un certo punto, perché poi il viso più... cioè che salta più all'occhio è di questa ragazza, sì, che comunque poi in realtà non è, cioè rappresenta qualcosa ma poi non è che è nel disco. Okay. Mi piaceva insomma esserci nella copertina ma non essere protagonista. Chiaro, ecco. Chiaro. Ma allora secondo me è una naturale evoluzione di quello che ho creato fino ad adesso. Credo che ogni disco che io faccio, ma insomma spero che questa cosa si senta, è sempre un'evoluzione, soprattutto a livello musicale, poi di quello precedente. Quindi Se Lungomare Paranoia aveva degli episodi un po' più tra virgolette dance o comunque elettronici, in questo disco è esplorata ancora di più questa parte. Poi a livello di scrittura e di mood e di tematiche, diciamo che ci sono sempre io con le mie paranoie, diciamo, cioè, con la mia vita, ecco, sì, con la vita di tutti i giorni. Che ti accompagnano. Tra l'altro abbiamo visto anche tutte le collaborazioni che ci sono in questo disco e volevamo chiederti come sono nate. Beh, in maniera molto naturale, io non ho mai fatto troppe collaborazioni a parte il mio primo disco Inverno, che insomma era bello pieno, e invece con questo disco mi sentivo di aver raccontato abbastanza le cose per conto mio e avevo voglia di insomma inserire qualcuno, non 2000 persone, però ecco, mirate, tre featuring mirati, esatto, da Cocco, che comunque è un ragazzo con cui mi trovo molto bene, abbiamo gusti molto simili anche a livello appunto musicale, e con Gammon era diciamo era dovuto, dopo un po' di tempo che non facevamo nulla insieme, questo pezzo che abbiamo fatto insieme, ecco, era perfetto per lui. E poi Fibra, che comunque insomma avevamo già collaborato in passato, però avevo questo pezzo che mi sono subito immaginato lui che la cantava, insomma. Esatto. Ritornando al film, no, che si fa prima di pubblicare l'album. Ma c'è appunto. C'è una collaborazione che non hai fatto e che ti piacerebbe fare? No, guarda, a proposito della Michelin, io avevo partecipato a un concerto suo a Bari e mi aveva chiesto sì? di ma vedi che l'hai beccata? Lei. Dai! L'hai beccata? Sì, sì. Beh, ma anche la copertina del disco l'avevo fatta io, quindi... Dai, ecco, vedi, però si ecco, spiegano un sacco di cose. C'è sempre l'idea di fare un pezzo insieme, non si è ancora concretizzato e... Boh, magari chi lo sa in futuro. Speriamo. Speriamo assolutamente di sì. Questo album, poi, come ultima domanda, vorrei chiederti che valore dai al fatto che esce per una major. Cioè, cosa ti viene da dirmi se ti chiedo pro e contro di avere dietro una realtà del genere e pro e contro di non averla? Ah, allora, sicuramente cambia l'asset che ti può dare, nel senso è una struttura grossa che quindi ti può aiutare in varie cose. Un esempio pratico poi è il fatto che siamo riusciti, diciamo, ad andare in radio con un Trinco 2, mm-hmm. Che insomma è un pezzo sicuramente il pezzo più forse funny del disco, mm. E che quindi si poteva spendere in questo senso. Però ti dico, a livello di creazione del disco, la major non so se è mai successo, perché poi è sempre stata una leggenda metropolitana. Però ecco, io ho sempre visto da quando faccio musica, poi lavorando anche con le copertine, vedo anche tante dinamiche, e comunque è un po' un falso mito quello che l'etichetta grossa influenzi. Ti mette magari bocca sulle parole piuttosto che la scelta dei beat. Questa cosa non succede, quindi poi a livello di creazione, nella fase creativa, major o non major, non cambia poi cosa. Certo, chiaro, che è chiaro. Positivo, insomma. Chiaro. Bene, noi ti ringraziamo, ovviamente abbiamo un appuntamento che è qua a Bologna il 3. Assolutamente, e... porteremo noi la Kodak a questo punto. Ah, ok. E poi niente, ti chiediamo di lasciarci con una canzone da mandare in radio che ci consigli tu. Beh, direi allora di andare con Hotel, il pezzo con Fabri Fibra che... Ottimo. Introduce abbastanza live. Ci perfetto. Piace, perfetto. Va bene, grazie allora. Grazie mille. Grazie mille a voi. Ciao. Ci vediamo allora. Ciao. Ciao.